gusto hanno sempre un sapore di festa. E noi come scemi se siamo montati in la testa, l'estate fa sogna e c'è se può casca, ma alla fine che resta? Una discoteca, un ballo, un'illusione in più, alla cosa seria ci hai creduto tu. Coi fili le due marionette, io e te sulla spiaggia di notte. Se siamo montati la testa, l'estate fa sogna e c'è se può sbaglia, ma alla fine che resta? Le notti d'agosto so sempre padrone del cuore, le solite